America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Chiusura di Wall Street, lo scampanellio di ieri, beh, diciamo che suonava in modo diverso rispetto a quello che abbiamo ascoltato lunedì, quando abbiamo avuto una bella giornata. Fiat Chrysler Automobile collocata sul listino a Wall Street, al New York Stock Exchange. Ieri una giornata molto più problematica, perdite addirittura di 400 punti verso metà giornata, oltre il 2%. In finale poi il Dow Jones ha recuperato, le perdite finali sono state pur sempre elevate, meno 1,06%, 173 punti, abbiamo chiuso a quota 16.141, ma che è successo ieri? Che abbiamo sfondato al ribasso quota 16.000, giornata turbolenta per i mercati, dunque, con un quadro di fondo che resta comunque problematico. Ma apriamo una parentesi prima di tornare sui mercati. Sentiamo Barack Obama su Ebola. This epidemic of Ebola rages out of control in West Africa. If it does, then it will spread globally. Barack Obama ha cercato di rassicurare ieri, c'è molta paura devo dire in America perché continuano ad esserci dei casi di contagio da Ebola, soprattutto a Dallas, e ci si domanda come sia stato possibile che in un ospedale come quello di Dallas gli infermieri poi sono stati contagiati da questo paziente. Ma torniamo ai mercati, perché il quadro di fondo da qualche tempo resta un quadro di fondo di correzione. La mia impressione è che qui il mercato sta cominciando a scontare quello che succederà fra 6 mesi, fra 8 mesi dell'anno prossimo, e cioè il fatto che la Fed comincerà a stringere, anche se l'impatto di questa stretta sarà del tutto limitato perché sarà una stretta molto contenuta. Il mercato si muove molto d'anticipo, quindi c'è di sottofondo questa ombra molto lontana. Nel breve, vendite al dettaglio USA meno 0,3% in settembre, prezzi alla produzione meno 0,1%, stiamo in contesto deflazione, scorte di magazzino aumentate dello 0,2%, ma restano sui livelli minimi dal giugno 2013. Insomma, ci sono una serie di dati uniti a tensioni per profitti societari, che quello dell'Intel ieri è andato bene, però da solo non è bastato, che hanno creato questa psicologia di realizzo, di correzione, di vendita. Sullo sfondo c'è anche Ebola, naturalmente, anche se da quel che mi dicevano gli operatori qui a Wall Street, in realtà Ebola per ora ha un impatto del tutto limitato sulle decisioni degli investitori. L'impatto forte invece viene dal petrolio, è venuto dal petrolio, perché ci sono state delle stime l'altro giorno di un taglio della domanda del 22% addirittura dall'Agenzia Internazionale per l'energia. I futures su petrolio a novembre sono scesi a quota 81,78 dollari al barile, siamo ai livelli minimi dal giugno 2012, e se la domanda cala vuol dire che la ripresa mondiale in prospettiva forse sta rallentando. Ai lavori del Fondo Monetario abbiamo visto qual è il quadro di fondo. Sentiamo Christine Lagarde. The global economy is weaker than we had hoped only 6 months ago. So there is recovery, don't get me wrong. But it's weaker than what we had thought. Christine Lagarde, per conto dei tecnici, degli economisti del fondo, ha fatto un retromarcia direi su tutti i fronti. La crescita mondiale in rallentamento, quella europea in rallentamento, un 40% di probabilità che l'Europa vada in recessione. Le ricette le conosciamo, sono ricette fondamentali, importanti per tenere il passo con l'economia globale, parlando naturalmente di Europa. Europa che diventa un po' una palla al piede anche per lo sviluppo delle altre grandi economie, quella asiatica in primis, che continua a crescere. There is a misunderstanding about China and Japan here in the United States, and certainly one of the things we're doing is spending many hours comparing notes about how to strengthen the world economy and deal with some of the challenges. Ecco, una delle provocazioni è venuta da Joe Hockey, il ministro del tesoro australiano, che in questo momento guida il G20. Il primo appuntamento importante per cercare di capire se saremo ancora in crisi e come gestirla sarà proprio al G20 di Brisbane in Australia. E Joe Hockey, che ho visto alle riunioni del fondo, devo dire anche lui è stato piuttosto duro, soprattutto con l'Europa. Sentiamolo. The currents are moving in different directions around the world. The US is looking stronger than was expected. Europe is looking weaker. But Germany, which is the dominant economic power in Europe, has capacity to help Europe to lift. La provocazione di Hockey è chiara, l'Asia tira, stiamo crescendo molto bene, l'Europa è ferma. Fate le riforme che dovete fare perché vi state rimpicciolendo, non tenete il passo con le dinamiche competitive globali. Qual è la proposta di Hockey? Attenzione perché è interessante sotto alcuni punti di vista. Hockey propone intanto 900 misure per rilanciare la crescita, devo dire un numero elevatissimo, ce le dirà poi al G20 di Brisbane, ma soprattutto propone anche un rilancio degli investimenti infrastrutturali e vuole creare una specie di hub, una specie di centro di controllo internazionale che dovrà fare da smistamento per tutti i grandi progetti di sviluppo infrastrutturale. Attenzione, non significa solo, questo lo spiegava bene Mario Draghi, non significa soltanto costruire ponti o strade, ma significa costruire autostrade elettroniche, significa aumentare la potenza della banda larga per poter accelerare il traffico su internet, significa introdurre tecnologia nuova. Ma come possiamo introdurla se poi abbiamo rigidità strutturali che ci impediscono di applicarla? Ecco, è su questo che l'Europa dovrà riflettere molto. Il messaggio dalle borse degli investitori è dunque prudente anche per questo, perché non si vede, soprattutto in Europa, con la Germania anche lei in difficoltà, una via di uscita immediata. In una situazione ingarbugliata dunque su più livelli, quello macroeconomico, quello regionale, quello delle riforme, e la conseguenza è volatilità, incertezza per gli investitori. Chiudo proprio con l'indice della volatilità. Il VIX, l'indice che misura la volatilità di borsa, è balzato del 20%, ha superato quota 28. Ecco, è un livello che non veniva toccato addirittura dal 2012. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo visto volatilità, problemi, preoccupazioni in borsa. Beh, diciamo c'è un'aria un po' da tempesta e dunque ispiriamoci a Bob Dylan, A Hard Rain Is Going to Fall. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 side forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain's gonna fall. Da New York è tutto. Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.